Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buon weekend, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Questo è il meglio di Nessun luogo è lontano, l'appuntamento del fine settimana in cui andiamo a recuperare i fatti salienti della grande attualità internazionale e i temi più importanti di cui ci siamo occupati durante, appunto, la settimana appena trascorsa. Partiamo dall'Africa, dalla Tanzania, poi andremo a Pechino e anche a Hong Kong per raccontarvi di un mercato criminale che vale 3 miliardi di dollari ogni anno. Stiamo parlando del mercato dell'avorio. I can't afford to see elephants dying like this. We are in a war zone. The poacher is prepared to shoot at you, and you have to be prepared to shoot back. We are talking about hundreds of tons of ivory getting into mainland China. Organized crime is never far away. The buyer is secret, the seller is secret, the killer is secret, everything is secret. You cannot trust anyone. E quello che sentite sono estratti da un film recentemente uscito, era il 4 novembre del 2016, l'anno scorso. Il film si chiama The Ivory Game, il gioco dell'avorio. Il produttore esecutivo è stato Leonardo DiCaprio. Due filmmaker, due registi, Keith Davidson e Richard Ladkani, si sono messi sulle tracce, anzi dovrei dire si sono messi a caccia dei cacciatori, cioè dei bracconieri, che in Tanzania, in Kenya, ma anche in altre zone dell'Africa uccidono illegalmente gli elefanti, estraggono le zanne e poi riescono a contrabbandare quel prezioso avorio fino a Hong Kong e fino in Cina. Detto ciò, do il mio benvenuto a Nessun luogo è lontano a Marco Galaverni, che è responsabile specie Habitat WWF Italia. Galaverni, benvenuto a Nessun luogo è lontano. A voi. Ci sono delle leggi che aiutano, ci sono dei framework, diciamo, internazionali, degli apparati giudiziari internazionali che evidentemente danno una mano, no, a chi combatte questo fenomeno. Ci sono altri, come dire, impedimenti invece che non aiutano organizzazioni come la PANS Foundation o come l'Interpol, per parlare ad organismi di organismi istituzionali? Ci sono dei limiti, ci sono dei vincoli, ci sono delle necessità anche legislative che bisognerebbe mettere in atto per contrastare meglio questo fenomeno, secondo lei, Galaverni? Sicuramente la Convenzione di Washington è lo strumento più potente e più diffuso che abbiamo per contrastare il traffico di avorio e di altri prodotti animali. Sicuramente il fatto che al momento attuale non tutti i paesi abbiano aderito alla CITES, ovvero la Convenzione di Washington, sì, e con la massima ristrettezza possibile, perché ricordiamo, se in tutto il mondo le popolazioni di animali sono inserite nella cosiddetta appendice 1, che ne vieta totalmente il commercio, in le popolazioni che vivono in quattro paesi africani, ovvero la Namibia, il Sudafrica, il Botswana e lo Zimbabwe, possono commercializzare legalmente una certa quota di prodotti d'avorio. E questa discrepanza dei livelli di tutela fa sì che sia più difficile tracciare anche quei traffici illegali che non necessariamente partono da questi paesi, ma che alimentano comunque il mantenimento di una domanda elevata, e quindi soprattutto in paesi più deboli, meno sviluppati per quanto riguarda la lotta al bracconaggio, possono avere ripercussioni terribili. Uno dei problemi del traffico, del contrabbando di specie protette è che molto spesso parte o viene effettuato come luoghi di transito in paesi con altissimi tassi di corruzione. Stavo leggendo proprio questa mattina il racconto giornalistico di un processo in Kenya che l'anno scorso ha portato in carcere Faisal Mohamed Ali. Insomma, questo grosso contrabbandiere si è beccato 20 anni di carcere, però continuava a fare ricorso in appello, aveva messo in campo avvocati piuttosto bravi, piuttosto strutturati. Nel frattempo, insomma, durante il procedimento sono sparite delle prove, sono stati sostituiti dei giudici, attivisti e osservatori del processo erano stati minacciati di morte. Insomma, una delle grandi vulnerabilità è che il bacino da cui si attinge sono i paesi africani, molto spesso, ma non solo, abbiamo visto anche l'Asia, e lì, insomma, gli apparati statali ogni tanto hanno seri problemi di corruzione e di fragilità. Questo per voi evidentemente è un problema. Assolutamente sì, e lo sanno bene anche le organizzazioni criminali che investono in avvocati di alto livello proprio per riuscire a muoversi all'interno delle pieghe, delle debolezze dei sistemi di questi paesi, e quindi trovare il modo, anche nel caso in cui vengano portati a processo, di avere pene lievi o riuscire ad invalidare appunto interi processi. E in questo modo si mantiene alto appunto il flusso di avorio illegale e si mantiene anche alta la domanda, e appunto salvo esempi come quello fortunato della Cina, in cui appunto negli ultimi mesi abbiamo assistito fortunatamente ad un calo notevole dei prezzi sul mercato sia legale che illegale, verosimilmente dovuti proprio al calo della domanda nel momento in cui il paese ha deciso di investire seriamente sulla lotta e sulla chiusura del mercato interno e sulla lotta al commercio. Grazie mille a Marco Galaverni, responsabile specie Habitat WWF Italia, per essere stato con noi, e buon lavoro. Grazie a voi. Ora facciamo una piccola pausa, tra poco torna Nessun Luogo Lontano, parleremo di demografia e delle sue conseguenze sulla politica. Restate con noi. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presento. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, ancora buon weekend da parte mia, di Giampaolo Musumeci, da parte della mia redazione. Questo è meglio di Nessun Luogo è Lontano, l'appuntamento del weekend in cui vi riproponiamo le parti salienti, le parti più interessanti e i temi più intriganti che abbiamo trattato durante la settimana appena trascorsa. Torniamo a parlare dei rapporti tra demografia e politica. E se la demografia fosse un'importante leva geopolitica, sentite. Secondo le proiezioni degli osservatori delle Nazioni Unite, gli ultimi dati sono stati elaborati nel 2015, nel 2050 saremo 9,8 miliardi di persone. La crescita, il cosiddetto boom demografico, in realtà negli ultimi anni si è arrestato, nel senso che tendenzialmente si pensava saremmo cresciuti di più, però insomma non è che saremo proprio pochini. E vi sarà anche un ribaltamento un po' nelle gerarchie delle popolazioni più numerose. E sempre nel 2050 il paese più popoloso al mondo sarà l'India, seguito dalla Cina, e seguito poi dalla Nigeria. Questa fotografia della Terra e della popolazione nel 2050. Per meglio tratteggiarla ci soccorre il professor Alessandro Rosina, che insegna demografia alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano. Questi grandi trend fotografati dall'indagine delle Nazioni Unite, che va a proiettare e a raccontare quello che sarà il mondo di qui a pochi decenni. Professor Rosina, proviamo a entrare un po' nelle pieghe di questi trend. Siamo destinati a essere tanti, ma anche a muoverci di più. Sì, queste sono le due direzioni verso cui sta andando il mondo, la popolazione. Su questo abbiamo l'assoluta certezza. Cioè, andiamo verso un mondo in cui la popolazione continuerà ad aumentare. Come avete giustamente detto, non ai ritmi vertiginosi del XX secolo. Ricordo che siamo passati da 1,6 miliardi nel 1900 a 6,1 miliardi nel 2000, cioè in un solo secolo proprio la popolazione, sì, ha avuto un boom enorme, demografico, unico nella storia umana. E questo secolo invece vedrà una crescita ulteriore, ma appunto a ritmi rallentati, e comunque questa è una certezza. Quello che però va precisato è che a crescere saranno soprattutto alcune aree del pianeta, cioè sarà una crescita molto diseguale, e quindi la questione demografica del XXI secolo rischia di essere quella degli squilibri più che della crescita in sé quantitativa, sì, degli squilibri che possono portare a un peggioramento qualitativo. Quindi la vera sfida di questo secolo è migliorare le opportunità, migliorare la qualità, passare da un modello di sviluppo che è stato soprattutto di quantità nel secolo scorso a un modello che sia più di qualità, però appunto e vincendo due sfide, che sono da un lato quella dell'invecchiamento della popolazione nei paesi sviluppati e dall'altro quella della crescita della popolazione, soprattutto in alcune aree. E come è stato detto, la popolazione mondiale da qui al 2050 vedrà aggiungersi circa 2 miliardi di persone, ma più della metà di questa crescita sarà concentrata in Africa, e quindi gran parte appunto della sfida della crescita quantitativa e della possibilità di combinarsi con un modello di sviluppo sostenibile dipenderà anche da quello che succederà lì, cioè dalla possibilità di creare vero sviluppo, vere opportunità, perché altrimenti rischia di aumentare non solo la povertà, rischia di potersi sviluppare anche epidemie che possono andare fuori controllo, e poi questi squilibri possono portare anche a movimenti demografici, a immigrazione, a spostamenti migratori che possono diventare anche difficilmente gestibili. L'alimentazione, è, come dire, questa risorsa è fondamentale per l'uomo, è uno dei discrimini di questa dinamica. Beh, senz'altro, la popolazione non può crescere senza risorse. Le risorse principali sono l'aria, sono l'acqua e sono l'alimentazione. E ovviamente non c'è solo questo, cioè, ci sono comunque prospettive, opportunità di vita, di qualità che vogliamo tutti comunque migliorare, non quindi semplicemente di sussistenza. Però è vero che in alcune aree del pianeta i termini della sussistenza continuano a porsi. E quello che però è incoraggiante è il fatto che, nonostante i livelli di, ad esempio, assoluta estrema povertà continuano ad essere elevati in alcune aree, soprattutto in Africa e dell'Asia, comunque il tasso di povertà è in continua diminuzione. Forse sarebbe utile che diminuisse maggiormente, però a fronte di una crescita della popolazione, la quota di persone in condizioni di estrema povertà si è progressivamente ridotta. Però ci sono alcune aree, soprattutto l'area subsahariana, che sembra essere in una condizione di sviluppo bloccato, con una fecondità che continua a essere altissima, attorno ai 6 figli per donna, soprattutto in alcuni paesi, e condizioni di estrema povertà che continuano a essere elevate. E questa è l'area in cui grava la nostra maggiore incertezza anche demografica, cioè quanto effettivamente crescerà la popolazione in quell'area, incertezza sui flussi migratori e incertezza sulle condizioni di vita. Come in una partita di Go, quello che fino al 2012 è stato uno dei principali vantaggi strategici della Cina potrebbe presto trasformarsi in una debolezza. La Cina sta invecchiando e se già nel 2012 la popolazione in età da lavoro è entrata in una fase di declino, il Ministero del Welfare di Pechino calcola che tra il 2030 e il 2050 i cinesi andranno in pensione al ritmo di 7 milioni e mezzo all'anno. Dopo il picco massimo raggiunto nel 2011 con 925 milioni di lavoratori, ai tassi di crescita e invecchiamento attuali, nel 2050 i cinesi impegnati sul lavoro saranno solamente 225 milioni. Insomma, con una popolazione over 60 vicina ai 250 milioni nell'anno 2050, Pechino deve agire adesso per evitare la famigerata piramide rovesciata, ossia la situazione in cui un figlio relativamente giovane deve mantenere almeno 2 generazioni, quella successiva a lui, ma anche quella dei genitori. Se la Cina, come molti altri governi nel mondo, sta considerando un aumento dell'età pensionistica, c'è una misura che solo Pechino poteva adottare. Dopo 36 anni di quella politica del figlio unico lanciata nel 1979, dal 1 gennaio 2016 il governo ha mutato le sue politiche demografiche, consentendo a fette sempre più larghe di cinesi di avere più di un figlio. Tuttavia, secondo molti osservatori, la fine della politica del figlio unico potrebbe non essere sufficiente a innescare quel baby boom che i pianificatori del Partito Comunista Cinese si aspettano. Questa è la situazione in Cina e, come avete sentito, come potete ben capire, non è solo demografia, qua entrano in gioco evidentemente anche delle conseguenze economiche e evidentemente conseguenze geopolitiche. Alessandro Rosina, demografo della Cattolica di Milano, quella sollecitazione da parte di un ascoltatore, il rapporto tra cambiamenti climatici e demografia, non so se nelle sue ricerche ha mai intercettato, ha mai incrociato questo aspetto. No, ma è senz'altro un aspetto di interesse. La demografia si intreccia con tutto, con l'economia, sociologia, psicologia e quindi anche con gli aspetti senz'altro ambientali, perché poi le grandi catastrofi naturali hanno effetti molto forti, le hanno sempre avuti nel tempo e continuano ad averli anche oggi. Il riscontro più diretto è quello degli spostamenti di popolazione, perché è evidente che nei contesti in cui le condizioni ambientali diventano instabili, come anche quelle politiche, e non consentono più quindi di avere una condizione di rapporto tra popolazione e risorse di mutuo sostegno, è chiaro che la popolazione tenderà a spostarsi e tenderà quindi ad andare a cercare opportunità altrove. Quindi il primo impatto vero, quello più evidente, quello che si può scontrare è soprattutto sulla mobilità. Quindi un fattore ulteriore di una mobilità, di spostamenti che comunque andranno a crescere nel tempo, è comunque anche incentivata anche da fattori di questo tipo. Lei faceva riferimento ai grandi movimenti delle popolazioni nel mondo, voglio dire, l'immigrazione, ce ne occupiamo molto spesso qui in Nessun Luogo Lontano, è un'evidenza. Siamo destinati a essere un grande meticciato? Beh sì, o ci chiudiamo tutti dentro dei muri, o costruiamo ogni paese muri sempre più elevati, perché le spinte poi saranno sempre più forti allo spostamento, oppure diventerà normale. Ma io penso che sia una cosa positiva quella di pensare fra 50 anni un mondo in cui ci si possa spostare liberamente ovunque si voglia andare e si possa sposare chiunque ovunque sia nato e in base semplicemente ai propri desideri e alla propria volontà e non a vincoli posti dall'esterno. Quindi se questo è vero, se vogliamo un mondo in cui ci si possa muovere liberamente e si possa scegliere liberamente, la strada del meticciato è senz'altro un punto d'arrivo che dobbiamo prendere in considerazione. Però questo vuol dire affrontare le sfide oggi del confronto culturale, che non è mai semplice. La religione, l'appartenenza religiosa tende comunque ad essere legata a comportamenti riproduttivi più ampi, più estesi, perché comunque è legata a molti aspetti, sia di precetti religiosi ma anche di apertura verso il futuro, di alimentare comunque una propria appartenenza a cui si dà continuità, si dà solidità. Quindi tutte le religioni da sempre insomma danno importanza alla propria crescita demografica, però è anche vero che la religione cristiana e cattolica attualmente fa riferimento a paesi che la transizione demografica l'hanno vissuta soprattutto nel passato e quindi adesso sono più in declino, ma non per scelta, perché sono in quella fase storica, mentre altri paesi dove ci sono religioni diverse, i paesi musulmani invece stanno attualmente vivendo in larga parte ancora la transizione demografica e quindi non solo per motivi di scelta religiosa più forte, ma anche o identitari, come nel caso della comunità palestinese, israeliana, eccetera, ma anche appunto per il punto storico in cui si trovano all'interno di questa fase. E questo fa sì appunto che chi vive in quei paesi con quella religione si trova appunto in una fase maggior crescita. Però questo si lega a un altro aspetto che è molto importante, sì. È uno dei tasselli centrali, che è il ruolo della donna. Perché si lega sia alle scelte di sviluppo dei paesi sia alle scelte poi demografiche. E se c'è un elemento su cui dovremmo investire maggiormente non è tanto la battuta di prima, importiamo, esportiamo preservativi, sì. Quello che dobbiamo esportare è la possibilità di riscatto, di crescita, di investimento sul fattore femminile, perché questo vuol dire che le donne potranno quindi uscire da una condizione proprio di schiacciamento culturale, di autonomia nelle proprie scelte, di istruzione, di investimento sul proprio futuro, che diventa però anche investimento sulla qualità e non sulla quantità dei figli, che poi porta a uno sviluppo vero e al miglioramento delle condizioni delle generazioni future. Grazie mille al professor Alessandro Rosina, lo ricordo, insegna demografia alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano. Ora facciamo una piccola pausa, ma torniamo tra pochissimo per parlare di Afghanistan e arte. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ancora un buon weekend da parte mia, da parte del team di Nessun Luogo è Lontano. Ora vi porto, come vi dicevo, in Afghanistan per raccontarvi di come, anche in una zona di conflitto, siano non solo possibili ma necessarie forme di arte per resistere a momenti tragici e dolorosi di una lunga, lunga guerra. Ascoltiamo insieme. Sono Richie Lenz, è un vero piacere. Vi racconto una storia. Sono tra i più grandi manager di cantanti rock. E tu sei fortunata perché ti ho organizzato il miglior tour degli ultimi anni. In Afghanistan. Vorrei una suite junior executive, decisamente non sulla strada. Eccomi, bellezza. La tua cantante è sparita. Mi ha rubato il portafogli, i soldi, il passaporto. Sono proprio nella merda. Benvenuto in Afghanistan. È bello essere qui. Allora, vi porto al cinema perché il film di cui avete sentito un brevissimo estratto è Rock the Casbah con Bill Murray e Bruce Willis. E questo film racconta le vicende di una pop star che molto, molto sembrano vicine a quelle di una storia reale, che è la cantante afghana Ariana Said. Perché vi dico questo? Perché vi parlo di cinema e di musica in Afghanistan? Perché è venuto il momento di aprire una piccola parentesi tutta dedicata alla vita culturale afghana. E con chi non possiamo parlarne se non Francesca Recchia, che ci parla da Londra ma vive a Kabul, ricercatrice, scrittrice, indaga l'arte soprattutto nelle zone di conflitto ed è soprattutto dannatamente innamorata di Kabul. La voce che sentite è quella di Ariana Said, la prima forse grande pop cantante pop afghana che ha raggiunto celebrità non soltanto nel suo paese ma anche a livello internazionale. È diventata famosa nel 2008, è stata anche giudice di Voice of Afghanistan, che è un talent a tutti gli effetti come quelli che possiamo e vedere nei nostri canali. Ed è una cantante che ha fatto tanto discutere soprattutto gli ambienti religiosi più conservatori in Afghanistan e non solo. L'episodio di cronaca che ci fa parlare di lei è che venerdì scorso doveva tenere un concerto al Ghazi Stadium di Kabul, che ai noi era noto in passato, era famigerato per le lapidazioni dei talebani. 30.000 biglietti erano già stati venduti, ma poi c'è stata una sollevazione, proteste da parte di alcuni cittadini e poi di molti mullah, di autorità religiose. Alla fine le autorità hanno cancellato l'evento. Quanto la società afghana ha gli anticorpi per resistere a certe ondate conservatorie, ma anche alla violenza appunto di Taliban e ISIS? Scopriremo che Kabul ha una vita al di là della cronaca, che invece ci restituisce ai noi solamente l'aspetto più negativo. Francesca Recchia, eccoci qua, sono da te. Eccoci. Allora, intanto un commento su questa cancellazione di questo concerto. Insomma, la Said è una pop star, è una celebrità, lei vive a Londra e si reca in Afghanistan per fare concerti, lo fa anche in maniera abbastanza nascosta, si dice all'ultimo quando c'è il suo concerto, tanto anche l'ultimo di venerdì scorso è stato annunciato pochissimi giorni prima per ragioni di sicurezza, poi però insomma è stato bloccato. Quanto è ricorrente lo stop, il muro da parte delle autorità religiose più conservatore rispetto a eventi di questo tipo in Afghanistan? Guarda, la situazione è un po' più complessa di quanto non sembri, nel senso che da una parte c'è effettivamente la pressione da parte degli ambienti più conservatori rispetto a delle espressioni culturali pubbliche che soprattutto riguardano le donne, che sono guardate con sospetto. Dall'altra c'è un'oggettiva preoccupazione per legata all'ordine pubblico. Come diceva Giuliano prima, il governo non ha grande presa sulla popolazione, quindi trovarsi in una situazione di provocazione in questa condizione di incertezza diventa oggettivamente difficile da gestire. E un personaggio come Ariana Said, che non è affatto sottile nei suoi messaggi, sì, e nella sua condanna di di atteggiamenti troppo conservatori e troppo opprimenti rispetto a espressioni più contemporanee e più egalitarie, diventa, se da una parte è un'espressione culturale, dall'altra diventa oggettivamente una questione di ordine pubblico. Quindi questa, nella valutazione dell'episodio di cronaca, è una dimensione che va assolutamente considerata. Quindi sì, è vero, ci sono delle grosse pressioni verso il controllo delle espressioni culturali, ma dall'altra c'è la preoccupazione oggettiva di non creare un ulteriore fonte di conflitto, certo, in una situazione che poi diventa difficile proprio da gestire. Hai fatto... Come dappertutto, no? Bastano poche teste calde a creare delle situazioni che possono scappare di mano, e in un posto dove le armi e gli animi sono così, le armi sono così diffuse, gli animi così accese, se la situazione scappa di mano in maniera oggettivamente preoccupante. Certo, fra l'altro tu dicevi personaggio scomodo, vi cito alcuni versi di alcuni suoi brani, dice Ariana Said: sono niente, sono un peso, sono una schiava quando sono una moglie, sono un mal di testa quando sono una sorella. Insomma, è una femminista molto agguerrita. Immaginate gli ambienti religiosi più conservatori come possono prendere versi di questo tipo. Torniamo però con Francesca Recchia, ricercatrice, scrittrice che ormai da anni vive a Kabul, in quella Kabul un po' più sotterranea, molto poco ai noi raccontata. Ne approfittiamo con te, Francesca. Esiste una vita culturale? Quanto è cambiata la vita culturale, le mostre, i concerti di Kabul adesso che la presenza non solo militare ma straniera in generale è andata calando negli ultimi anni? Guarda, è cambiata profondamente. A uno sguardo, come dire, ingenuo, può sembrare che negli ultimi 5 anni le cose siano pian piano andate declinando fino a scomparire. Quindi se uno, come dire, guarda superficialmente Kabul adesso, pensa che sia arrivato a un punto di tracollo dove lo spazio per l'espressione culturale non esiste più. In realtà quello che è successo è che nel corso degli ultimi 4-5 anni c'è stato, come era prevedibile, una riduzione dei finanziamenti alle espressioni culturali, che prima erano anche usate in maniera abbastanza strumentale, no? per promuovere messaggi politici di vario, sì, genere, l'emancipazione delle donne, la promozione della pace, l'ambientalismo. Sì. Adesso tutto questo c'è molto meno, anche perché gli stranieri sono sempre meno, i soldi sono sempre meno e le occasioni pubbliche, come dicevamo prima, sono sempre più misurate proprio per paura che possano diventare quelli che chiamano soft target, no? Quando ci sono tante persone tutte insieme che fanno una cosa un po' fuori dal comune, rischia ovviamente che diventa immediatamente un facile bersaglio per fondamentalisti di vario genere. Certo. Quindi da questo punto di vista le cose sono molto cambiate, perché le grandi aggregazioni pubbliche sono diminuite fino quasi a scomparire. Infatti il concerto di Ariana Said da uno stadio, quindi uno spazio pubblico, è stato poi spostato in un albergo con un pubblico limitato e estremamente controllato. Sì. Quindi questa è un po' la tendenza, che le cose succedono, ma succedono in maniera molto più circoscritta, molto più silenziosa, con un uso dei social media molto limitato per evitare esposizioni poco o troppo rischiose, diciamo, e per evitare che le cose possano essere fraintese e poi manipolate in direzioni non desiderate. Certo. Francesca Recchia, ci fai qualche esempio di espressione artistica attuale, odierna? Che tipo di artisti afghani girano a Kabul? Cosa fanno? È più forte la musica, l'architettura, l'arte? La forma, diciamo, di espressione intramontabile è la poesia. Ci sono società poetiche che si riuniscono con decine e decine di membri ogni settimana, con letture e declamazioni pubbliche, con scambi di commenti e un dibattito critico molto molto attivo. E la tradizione culturale è molto viva, tanto tra gli uomini che tra le donne, tanto a Kabul che nelle province, e tanto in Dari che in Pashto. Quindi entrambe le lingue, che significa anche, come dicevate prima con Giuliano, no? L'Afghanistan è molto diverso dal punto di vista etnico, diciamo tutte le varie espressioni etniche del paese sono partecipi anche di questa forma di espressione culturale. Sì. Quindi la poesia su tutte. Sì. Esiste comunque anche una scena abbastanza interessante, anche se proprio di nicchia, di arti visive, installazione, fotografia, tantissimi giovani fotografi incoraggiati anche